With Fergal Kavanagh and Fiore alla regia col DJ Alessandro Di Laurentiis. E qua abbiamo Ben Diamond with un splendido versione remixato da Joey Negro. Stiamo parlando del suo hit In Your Arms e questo si trova sull'etichetta Epic. Questo conclude la prima parte di House Club e noi prendiamo una piccola piccola pausa pubblicitaria e torniamo col promo in tour. Radio Tour, the moving station. That's Alessandro Di Laurentiis, il nostro DJ in azione al momento. You're listening to Promo in Tour, dove ascolteremo sia dischi promozionali di nuovissima uscita che cose magari già ascoltate ma ancora senza un'etichetta ufficiale e quindi da considerare white label. E questo è proprio uno di quelli. Questo è MM con Sunshine After the Rain, senza label, perciò ancora non disponibile, solo su Radio Tour, the moving station, nella parte Promo in Tour che proponiamo adesso. Un messaggio che ci è arrivato sul GSM Box: ciao Radio Tour, Mau, Camilla, Nicky e Jenny. Oggi siamo tanti felici per la sconfitta dell'Inter. Comunque, forza Napoli, siamo grandi. Grazie di questo, GSM Box 0348 24 38 888. E sì, è vero, l'Inter hanno perso contro l'Udinese oggi 3-0. Udinese-Inter, incredibile questo risultato. Vediamo domani con ansia come andranno i Napoli contro Bologna. Di sicuro andrà bene. Comunque, pensiamo adesso di sabato sera. Live on Mix, the best music mixato per voi da Alessandro Di Laurentiis DJ. Questo è Promo on Tour che continuerà fino a voi per un altro paio di dischi. Adesso proponiamo Fusion Groove Orchestra with If Only I Could. Only I Could from Fusion Groove Orchestra. And this is the music mixed by Alessandro Di Laurentiis DJ. The best music on Live on Mix sabato sera on Radio Tour, the moving station. Alla regia abbiamo Fiore, io sono Fergal Kavanagh e adesso we're gonna make it Promised Land mixed by the Minister of Sound. Questo è la promo di Mafia Music e Joe Smooth che fa tutti gli strumenti bel ritmi on Radio Tour Live on Max. To Live on Mix on Radio Tour, la musica mixato da Alessandro Di Laurentiis. E un messaggio arrivato: forza Napoli, do sempre e per sempre, domani 3-0 per il Bologna a casa. Vai Paolo di Poggiomarino, un saluto a noi ai ragazzi del 5B ed un bacione a Katia. E speriamo che tua previsione andrà bene. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Roberto Barone, martedì 24 ottobre al First Lady Disco Pub, serata Spirit of Funk, DJ Carmella e Uncle Vic. The First Lady Disco Pub, via Giordano Bruno, Napoli. In tour venerdì 27 ottobre per l'anti-Halloween party a Lord Byron. Lord Byron Disco Pub Birria, San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Ingresso gratuito. Radio Tour in Tour. Tour. Yeah. 081 790. Un sabato sera on Radio Tour, the moving station, DJ Alessandro Di Laurentiis che sta spinning the discs and mixing the groove for you. E questo è Fluid with the Baccarat con il brano Voce e Oh Mio Amor, l'etichetta è Nice Music, un po' di spagnolo lì. Infatti questa seconda parte di House Club è un po' più dedicato al, è un po' dedicato alla musica house, un po' più latina diciamo. Quindi come facciamo nel House Club, percorremo un ampio percorso nella musica house, questa volta più latina, di quello più conosciuto a quello più ricercato, da quella nuovissima o a quello già ascoltato nell'ultimo anno. Proprio la cosa più bella che potete aspettare di sabato sera, che tutti vanno a ballare e noi vi prepariamo per la serata che vi aspetta. Continuando con la musica, sentiamo Mezza Forte con la bella Juliet Edwards with Garden Party, l'etichetta Peppermint, la Garden Party, festa di giardino. With Juliet Edwards and Garden Party, un grandissimo bacione a Daniele Di Acera per il suo 17° compleanno e questo è fermato dal suo polcino di Ischia. Grazie a Radio Tour di esistere, grazie a voi di ascoltarci. Prendiamo una piccola pubblicità da Live on Mix. David, Craig David è proprio the man of the moment, diciamo, che ha vinto un sacco di awards al MOBO, musica che ha origine black nell'Inghilterra e infatti è il più giovane artista inglese mai di avere un album numero uno come solista, 19 anni tiene. E in questa selezione con gli Artful Dodger and Robbie Craig with Woman Trouble, you're listening to Live on Mix. In questa sezione abbiamo ascoltato Made in England col two-step, cioè detto anche UK Garage. la protagonista principale di questa rubrica, che comunque abbraccerà nel corso dell'anno anche altri generi musicali del Made in England. Live on mix, mixato da Alessandro Di Laurentiis, che ci saluta adesso. Però stasera e per i prossimi sabato sarà protagonista al Vomero, nel Diva, nei prossimi di Piazza Medaglie d'Oro a Napoli, e domani e per tutte le domeniche e giovedì e di venerdì Sly Music in via Orazio, Napoli. Le 22:01. John Radio to the Moving Station, saremo insieme fino alla mezzanotte stasera, appena dopo le 10, quindi 2 ore della best music to make you dance and swing dovunque che siete. Io sono Fergal Cavan al microfono, e come la regia c'è Fiore, e di là abbiamo pure Giancarlo Cavallo DJ, che farà questo prossimo ora con noi, farà 4 tracce, diciamo, il white label, il live on mix, il white label di nuovo, e come era, come sarà, un bel remix di un pezzo. Quindi ragazzi, se siete nel umore di ballare, mettetevi in movimento adesso, perché iniziamo con i Daft Punk One More Time nel white label. Il remix che state ascoltando adesso, e prima c'erano i Nasty Boys with Everybody Work. You're listening to Live on Mix, mixato da Giancarlo Cavallo DJ, the best music sabato sera on Radio Tour The Moving Station. Messaggio: ciao, sono tristissima, per fortuna ci siete voi, grazie mille. Grazie. A che ora c'è il Gran Premio? Mi pare che sia alle 9 di mattina, sì, e mancano solo 3 punti alle Ferrari, e tu infatti hai scritto forza Ferrari. Vai Vale, grande. Oh, and that's a bel remix and un promo qua su Radio Tour. Giancarlo Cavallo DJ, che sta facendo il mixaggio live on mix on Radio Tour The Moving Station. Messaggio: ciao Radio Tour, i miei 11 leoni di domani saranno, vabbè, non leggo tutte le squadre del Napoli, comunque condividiamo forza Napoli, e mentre pensiamo a questo e la bella partita pure che stanno facendo, hanno fatto 2 pari, ho appena visto il Milan Juventus proprio in questo momento, e mi sembra che sia finito pure quello. Facciamo una piccola pausa. SBOT Radio Tour, this is Giancarlo Cavallo DJ, che sta facendo il mixaggio. Io sono Fergal Cavan, alla voce e alla regia c'è Fiore, and you're listening to Naive, looking for happiness, cercando la felicità, che chiaramente avete trovato tutti voi che state ascoltando Radio Tour, because we are playing you the best dance music on sabato sera. Un messaggio che è arrivato al 0348 24 38 888, un po' misteriose questo. Qui è la Pagnotta che scrive: avvisa il muflone, non dimentarti troppo senza di me. Ciao amore, per stavolta ti perdono, ma non prenderci gusto. Hai sentito bene questo messaggio? Yes indeed. And the music continues on Radio Tour ATC around the world. Computer love, the best music on Radio Tour live on mix. Come si sente, veramente live in diretta. And that's the idea, questa è l'idea, proprio live on mix sabato sera on Radio Tour for you. Valo DJ ATC on live on mix. Mix Giancarlo Cavallo DJ, Fergal Cavanaugh alla voce, Fiore alla regia. Avete sentito in questo pezzo prezioso featuring Marvin with Voices, poi Naive, Looking for Happiness, e Unconditional Computer Love, per finire con ATC Around the World. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In Tour con Roberto Barone, martedì 24 ottobre al First Lady Disco Pub, serata Spirits of Funk, DJ Carmella ed Uncle Vic. The First Lady Disco Pub, via Giordano Bruno, Napoli. In Tour venerdì 27 ottobre per l'anti-Halloween party a Lord Byron. Lord Byron Disco Pub Birria, San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Ingresso gratuito. Radio Tour in Tour. Tour. Yeah. 081. Quando abbiamo sentito pure Mario Più with The Vision, e prima di quello Picotto with Proximus, you're listening to Live on Mix, Giancarlo Cavallo DJ on Radio Tour for you. F on Radio Tour The Moving Station, live on mix. Siete ascoltando i white label, cioè quelli senza etichetta, the best music fatto da Carlo, Giancarlo Cavallo DJ on Radio Tour The Moving Station, live on mix, dancing for you on Saturday night. Saturday night a ballare, mi sembra la cosa giusta da fare. Volevo salutare a Soledad, che mi ha scritto: io sto bene, thank you, and how are you? Ci avete sentito pure all'inizio di questo pezzo, Picotto Proximus, poi Mario Pew, The Vision, Red Star Fly e System F Cry, un bel remix, e abbiamo chiuso con Gorilla Tenchi e Giancarlo Cavallo DJ che sta mixando per voi tutti questi white label, cioè senza etichetta, quindi proprio bello sentirli adesso on live on mix on Radio Tour. E adesso cambiamo un po' il tipo di musica, la tipo no, però il focus, diciamo. Radio Tour, the movie. 3, questo è Just for Tonight di Gilbert Montagne, un bel pezzo che risale a qualche anno fa, però adesso noi siamo nel 2000 e in questo parte del programma com'era, come sarà? Giancarlo Cavallo propone un bel remix del 2000. Com'era, come sarà? Eccoci, Just for Tonight, remix dai Free Project on Radio Tour, live on mix. Just for Tonight che avete sentito pochissimo fa qua di Gilbert Montagne, lui original del 1983. Com'era, come sarà? Ogni settimana Giancarlo Cavallo ci proporrà questo bel remix e vogliamo ringraziare a Domi, il cantante che si presterà ogni settimana a cantare un remix alla grande. You're listening to Live on Mix on Radio Tour, io sono Fergal Kavanagh, il DJ Giancarlo Cavallo adesso se ne va, grazie a Fiore per la regia e continuiamo con vabbè, vediamo. Andiamo dopo il punto ora. Ladies and gentlemen, the clock. Le 23 e 2 minuti. The movie station. Sabato sera, io sono Fergal Kavanagh, alla regia c'è Fiore e adesso è entrato un altro grande DJ. Adesso avremo Enzo Cappicelli che ci porterà fino alla mezzanotte con 4 quarti d'ora di la bella musica ballata di sabato sera. Let's dance all together e iniziamo col pezzo che chiamiamo Carlito's Bar. Quindi siete tutti seduti? Oh, male questo ragazzi, mettetevi a piedi a ballare. Iniziamo con Harab di Palo with Depende, remixato a KK Beats. E risentire questo brano e questo volto in versione chiaramente mixato per l'HK Beat, però in versione spagnola, versione originale, era Harab di Palo, grazie Enzo di questo. Enzo Cappicelli che sta facendo il mixaggio per noi e sta entrando adesso con un altro bel pezzo remixato che magari conoscete pure, però noi on Radio Tour vi la facciamo nel live on mix, il modo di ballare. Questo è Bel Paese. Tutti quanti in piedi, quindi è proprio inutile se vi dico Will the real Slim Shady please stand up, perché poi non vi riesco a distinguere se siete tutti quanti a stand up. Comunque live on mix sabato sera, questo è il grande DJ Enzo Cappicelli che ci sta facendo questo mix. Avete sentito Harab di Palo con Dipende, poi Hello World from Bel Paese, lì c'era Eminem with the real Slim Shady. Noi siamo al Carlitos Bar adesso, eccoci dove siamo e voglio salutare Roberta, un grande bacio a te e a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando dovunque che siete. Perché non mi scrivete un messaggio? Siamo qua in studio, io Fiore e il grande DJ Enzo Cappicelli. Il messaggio è 0348 24 38 888. Quello anzi è il numero, il messaggio lo decidete voi. Allora abbiamo appena uscito fuori dal Carlitos Bar, però riapriamo la porta e andiamo dentro un'altra volta. Carlitos Bar, dove vediamo chi c'è sul palco adesso? Mi sembra che sia Samantha Momba, and Samantha ci farà sentire Got to Tell You. Carina Ray, l'allucinazione che ci accompagna fuori dal Carlitos Bar. Adesso andiamo a fare un altro tipo di discorso musicale, diciamo. Però facciamo un riassunto. Avete sentito Samantha Mumba, Got to Tell You, Robbie Williams, Rock DJ e Bagato, Portami al Party, tutto mixato da Enzo Cappicelli on Radio Tour, live on mix sabato sera. E ciao a Lucia che ci ha scritto, ha detto che serata, meno male che ci siete voi a farmi un po' di compagnia, grazie Lucia, e speriamo che la serata continui ad andare bene, vai. E poi ciao da Michela, Teresa, Lucia e da Maglia, da Poggio Marino. Ecco, cosa da fare, che facciamo? Bah, mo vediamo. In tour con Roberto Barone, martedì 24 ottobre al First Lady Disco Pub, serata Spirit of Funk, DJ Carmela ed Uncle Vic. The First Lady Disco Pub, via Giordano Bruno, Napoli. In tour venerdì 27 ottobre per l'anti Halloween party a Lord Byron. Lord Byron Disco Pub Birria, San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Ingresso gratuito. Radio Tour in Tour. L'IDJ. Il DJ stasera live on mix. Abbiamo sentito altri DJ stasera, però al momento è il momento di Enzo Cappuccelli e B52. Ci ha fatto sentire questa volta DJ Disciple The Brazilian Affair. Club Fiesta con La Fiesta. E avete appena sentito Johnny Corporate with Sunday Shouting. Live on mix on Radio Tour sabato sera. Siamo quasi arrivati all'ultima parte del programma, però manca un altro bel pezzo che Enzo Cappuccelli ci farà sentire. Un paio di messaggi che sono arrivati. Allora ovviamente andiamo fortissimo a Sarno, perché ci hanno scritto un gruppo Schizzati di Sarno. La notte è appena iniziato, facci sentire una bella canzone. Questo il carico le diamo ad Enzo. Adesso baci di Mary, Joe, Mario e Giuse. Ciao a voi. E poi Tony di Sarno ci ha scritto, ha chiesto Dolce Voce che riscalda questa gelata notte. E grazie, ha chiesto cosa devo fare per ridare fiducia ad un amico con cui ho rifatto pace oggi. Io ti direi, Tony, dallo un po' di tempo e sicuramente se l'amicizia vale, la fiducia si riprenderà da solo. E poi ciao a Giulia che ci ha scritto per mandare un bacione a Luigi Ferro, dice che ti vuole bene. Ecco il GSM Box, sabato sera live on mix, B52, la musica adesso. Diamo il controllo, il console ad Enzo Cappuccelli. Enzo Cappuccelli presente. Move, gonna make your body move, this is the move. Noi vi abbiamo fatto the move tutte le sere. Enzo Cappuccelli è il nostro DJ che ha fatto quest'ultima ora. E il B52's live on mix sabato sera on Radio Tour. Oh, io me ne vado, il tempo di andare. Chiudiamo per stasera. Voglio ringraziare ad Alessandro Di Laurentiis DJ, Giancarlo Cavallo DJ, e per quest'ultima ora Enzo Cappuccelli DJ. Torniamo la settimana prossima con la meglio, migliore musica di ballare on live on mix, grazie a Fiore che ha fatto la regia. E io sono Fergal Kavner, ringrazio tutti voi che ci hanno ascoltato. Alla prossima. Ladies and gentlemen. Mezzanotte e un minuto.